ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Prima puntata. Al lettore. Un nuovo accostarsi e coincidere fra vita perenta e vita attuale. Una nuova misura di connivenza storico-letteraria. Il tentativo di immettere nella palude bastarda dell'italiano letterario in corso vecchie e potabilissime fonti dell'uso popolare nostrano. Tali erano le ambizioni del racconto che, intitolato Artemisia, era alle ultime pagine nella primavera del 1944. In quell'estate, per eventi bellici che non hanno purtroppo nulla di eccezionale, il manoscritto veniva distrutto. A giustificare l'ostinazione accorata con cui la memoria non si stancò negli anni successivi di tener fede a un personaggio forse troppo diletto, queste nuove pagine dovrebbero almeno riuscire. Ma poiché questa volta l'impegno del narrare non sosteneva altro che la forma commemorativa del frammento e il dettato si legava distinto a una commozione personale troppo imperiosa per essere obliterata, tradita, credo che al lettore si debba qualche dato dei casi di Artemisia Gentileschi, pittrice valentissima fra le poche che la storia ricordi. Nata nel 1598 a Roma, di famiglia pisana, figlia di Orazio, pittore eccellente, oltraggiata appena giovinetta nell'onore e nell'amore, vittima svillaneggiata di un pubblico processo di stupro che tenne scuola di pittura a Napoli, che s'azzardò verso il 1638 nella eretica Inghilterra, una delle prime donne che sostennero con le parole e con le opere il diritto al lavoro congeniale e a una parità di spirito fra i due sessi. Le biografie non indicano l'anno della sua morte. Anna Banti. Non piangere! Nel silenzio che divide l'uno dall'altro i miei singhiozzi, questa voce figura una ragazzetta che abbia corso in salita e voglia scaricarsi subito di un'imbasciata pressante. Non alzo la testa. Non piangere! La rapidità dello sdrucciolo rimbalza ora come un chicco di grandine, messaggio nell'ardore estivo di alti, freddi cieli. Non alzo la testa a nessuno. Mi è vicino. Poche cose esistono per me in quest'alba faticosa e bianca di un giorno d'agosto in cui siedo in terra sulla ghiaia di un vialetto di boboli come nei sogni, in camicia da notte. Dallo stomaco alla testa mi strizzo in lacrime, non posso farne a meno in coscienza e ho il capo sulle ginocchia. Sotto di me, fra i sassolini, i miei piedi, nudi e grigi. Sopra di me, come le onde su un affogato, il viavai smorto della gente che sale e scende l'erta da cui vengo e che non può curarsi di una donna accoccolata in singhiozzi. Gente che alle 4 del mattino si spinge come gregge spaurito a mirare lo sfacelo della patria, a confrontare con la vista i terrori di una nottata che le mine tedesche impiegarono una dopo l'altra a sconvolgere la crosta della terra. Senza rendermene conto, piango per quello che ciascuno di loro vedrà dal belvedere e i miei singhiozzi seguitano a bollire, irragionati, balenandoci, pazze festuche, il ponte Santa Trinita, torrioni dorati, una tazzina a fiori in cui bevevo da piccola. E di nuovo, mentre mi fermo un istante e raccapezzo nel mio vuoto che dovrò pure alzarmi, quel suono non piangere. Sotto le macerie di casa mia ho perduto Artemisia, la mia compagna di 3 secoli fa, che respirava adagio, coricata da me su 100 pagine di scritto. Mi tocca in fretta, come un'onda che s'allontana. Alzo finalmente la testa, che è già una memoria, e in questa forma gli presto orecchio. Taccio, attonita, nella scoperta della perdita più dolorosa. Ho riconosciuto la sua voce, mentre da arcane ferite del mio spirito escono a fiotti immagini turbinose che sono a un tempo Artemisia scottata, disperata, convulsa prima di morire come un cane schiacciato. Tutte immagini pulite, nitidissime, rilucenti sotto un sole di maggio. Artemisia, bambina, a Roma, che saltella fra i carciofi dei frati sul Monte Pincio, a due passi da casa. Artemisia, giovinetta, chiusa in camera col fazzoletto sulla bocca perché non la sentano piangere. E irosa, con la mano alzata, a imprecare, i sopraccigli contratti. E giovane bellezza, chino il viso appena sorridente, in veste di gala un po' severa, per questi viali, proprio per questi viali di Firenze, la granduchessa passerà a momenti. Sotto la cenere degli scoppi, senza lacrime, mi metto a parlarle. E la finestra di Borgo San Jacopo a cui t'affacciavi sull'Arno, il ritratto della tua compagna, cantatrice, sepolta a Santa Felicita. Non la raggiungo più. O è diventata troppo piccola, lattante addirittura, insieme ai lattanti dei profughi che sotto ai portici ricominciano a urlare di fame. Con un'agilità meccanica, ironica, le immagini continuano a fluire. Il mondo sconquassato le secerne come un formicaio. Non posso fermarle né riconoscere quelle che più mi premono. La bombola del latte da distribuire fra due ore al dispensario, le facce delle donne che si lagnano, ognuna con la sua smorfia istantanea di delusione e di scoraggiamento, le due mendicanti, piagnone, l'epilettico che chiede l'introvabile stupefacente, l'anginoso con l'attacco, la cantastorie tubercolosa, i cinque bambini imbroglioni che ritirano orazione doppia. Per miracolo, Angelica, la piccola paralitica, argina la processione. Mi ricordo dei suoi occhi celesti, incantati e infidi, e di come sua madre, la riverdugliola, dice: «L'è tanto religiosa!» Da quegli occhi m'era venuta la tentazione di una nuova storia, quando non sapevo che avrei perduto Artemisia. E mentre mi domando se Angelica avrà avuto molta paura, vedo all'altezza della sua testa, e così nettamente come non mi è mai riuscito, un fisuccio verdastro di bambina negletta, occhi che tirano il grigio, capelli biondici, una delicatezza di tratti proterva e strapazzata. Artemisia ha 10 anni. Per meglio rimproverarmi e farsi rimpiangere, abbassa le palpebre, come volesse avvisarmi che pensa a qualche cosa e che non me lo dirà mai. Ma io indovino. Cecilia, pensi a Cecilia Nari? La sento, da ragazzina disperata, stringermi le ginocchia. Non mi sono ancora levata in piedi e i miei singhiozzi sono ora per me e per lei soltanto. Per lei, nata nel 1598, anziana nella morte che ci sta intorno e ora sepolta nella mia fragile memoria. Le avevo regalato un'amica a Roma. Bisogna che la rassicuri, anche se non credo, come succede agli adulti, di potergliela restituire. E nella pietà per lei trovo una scusa per me, una scusa che non controllo, tutta di oggi. Angelica ha gli occhi, ha la malattia di Cecilia. Per questo l'ho cara. Mi rammento benissimo come andarono le cose. Cecilia Nari, figlia di signori che avevano palazzo a Via Paolina, e Artemisia Gentileschi, primogenita di Orazio, pittor pisano a Roma, avevano fatto conoscenza. La finestra del soffittone, dov'è la stanza di Cecilia, sporge su un balzo a dirupo che Artemisia raggiunge scendendo a salti dalla Trinità, dove abita in una casupola, dei Nari, appunto. Sul Montarozzo, che limita quel balzo, si ferma Artemisia e non ha paura di allungare il braccio attraverso il precipizio per cogliere sul davanzale di travertino la merenda che le regala ogni giorno quella signoretta malata, la quale sorride sorride come Angelica e si diverte ad aver paura che Artemisia cada, mentre costei fa la smargiassa e balla e zompa e sporge prima la gamba destra, poi la sinistra sul baratro. Hai visto? A un tratto s'accoscia tra i sassi e l'erba dura e mangia la pizza o i taralli, guardando fisso Cecilia e facendole dei segni di saluto alla muta, come se si allontanasse in barca. Dopo comincia la conversazione. «La signora madre è uscita!» dice Cecilia a voce acuta, strillante, sollevando le ossicine del petto, e la rondine che si tuffa a cercare il suo nido sotto la grondaia non strilla diversamente. Artemisia ascolta, attentissima, ma dondolando la testa e masticando come pensasse a tutt'altra cosa. «È uscita in carrozza!» seguita Cecilia. «Va alla pace!» Tante sono le feste di Roma e altrettante, per le due bambine, le occasioni di assaporare insieme il gusto di una libertà solitaria e malinconicamente avventurosa. Cecilia non si può muovere e chi porterebbe Artemisia a spasso? Sono giornate che anche le serve, anche le monache, corrono alle luminarie e alle fiere e il palazzo Nari, vuoto da cima a fondo, vale per la piccola sequestrata quanto per la vagabonda tutta la collina del Pincio, rustico e polveroso. Dai fili d'erba il silenzio arriva al cielo senza nuvole. Lo scricchiolio del seggiolone di Cecilia lo incrina appena. «E quante carrozze hai?» chiede Artemisia aggressivamente, ma con lo sguardo distratto, stringendo fra il pollice e il medio le zampe di una cavalletta catturata di soppiatto. Cecilia alza le spalle come due alucce cartilaginose. «Che so, 12, 13. E neanche oggi puoi camminare?» Da piccola Artemisia era anche crudele e ora fa l'atto di gettare la cavalletta sull'amica. Il suo viso si increspa fingendo uno sforzo e una soddisfazione così truculenta che solo per quella si giustifica l'urlo spasimante di Cecilia. «No, no! Quanto sei scema!» fa Artemisia, a un tratto divenuta ilare, affettuosissima. Si è alzata in piedi, ha lanciato l'insetto nel precipizio e si rimbocca sulle spalle le maniche della vestina popolaresca di panno grosso. «Ora faccio un salto e ti vengo a trovare!» Nuovo strillo dell'inferma, mentre Artemisia indietreggia come per prendere lo slancio, buttata a terra in un monte, panni e membra, essa ride. Così passano le ore. Poco si azzarda a domandare Cecilia, a cui pochi rispondono, appena appena la balia che si interrompe esclamando «Se quella bella Madonna se la prendesse!» Ma Cecilia sa che il padre di Artemisia dipinge santi come zia monaca, anzi più grandi. «Grandi così, larghi così!» spiega Artemisia stendendo smisuratamente braccia e gambe sul montarozzo. Ora un San Sebastiano tutto nudo, con le frecce e le ferite e il sangue che cola. «Sangue vero, sì», precisa spudoratamente, aizzata dallo stupore delle pupille celesti. «Chi sta modello per San Sebastiano deve sopportare le ferite». Quando parla del padre, delle sue pitture, dei suoi successi, fra invenzioni ingenue e crude verità, Artemisia ingozza veloce senso e suoni. C'è il manigoldo che apre la bocca, stringe i denti, ha la spada in mano e si sente il vento del colpo. C'è la Maddalena, che è Caterina della Lavandara, bella, coi capelli biondi. Lei si stanca di stare in ginocchio. Babbo non vuole che ci parli. Io faccio l'angelo con le ali. «Come le ali?» fa Cecilia, non reggendo la meraviglia. «Le ali vere, tutte di penne. Le ha cucite Vincenzo, delle monache. Anzi, un giorno ci volo!» Come sempre, quando l'invenzione è scandalosa, Artemisia indurisce il viso e guarda in qua e là, imitando una donna che ha molto da fare, sicura del fatto suo e di quel che dice. Né Cecilia ribatte, ma i suoi occhi si fanno di cristallo inerte, insensibili, come fossero chiusi. Visibilmente essa si allontana in un isolamento impenetrabile, notturno, e Artemisia può vederle compiere certi piccoli gesti di inquieta abbandonata che tenta di farsi compagnia con le proprie membra. Il silenzio che dalla terra è salito al cielo sulla terra ritorna, spaccante, e si infila in quel dirupo che comincia sotto gli occhi delle bambine e finisce in un fosso dietro Palazzo Nari, pieno di cocci, stracci, topi morti, acque fetide. a specchio l'una dell'altra. Par che le amiche non si conoscano più, che la vita o la morte le abbiano già divise, finché un mormorio si leva e Artemisia, che pensa ad alta voce, come fa quando, dopo una corsa, si ferma sola fra i cespugli della collina. Menica rivuole la coperta di lana e c'è qua freddo. Oppure un Natale, una Pasqua, poi ho 12 anni e posso prendere marito. Oh, quasi cantando, babbo è più bravo di tutti. Lo ha detto anche compare Cosimo, che è foriero, ora dipinge per i frati. Aver ricordato che a 10 anni Artemisia diceva Pelifrati, troncando con un accento rauco d'accatto la scorrevolezza ereditaria della parlata toscana, mi pare un successo, una testimonianza di fede nella sua storia. Seguito a rammentare che il sole fa già le ombre lunghe, che le 23 non sono lontane, fuori tutto brilla ancora, ma nel soffittone il buio guadagna spazio ogni minuto. Entra Ersilia alla balia, soffiando per il caldo della festa, tutta in sudore nel corpetto di gala, insofferente e soccorrevole, con la tazza del decotto in mano e i lagni in bocca. Gesù, Maria, santo paradiso, vedi chi vive e morono i padri di famiglia. Non accarezza la sua pupilla, ma cava di sotto il grembiale di taffetà i dolci della fiera, mandorlati, ossi di morto e una medaglia benedetta. Par che non s'accorga di Artemisia, ma i dolci li posa sul davanzale. Vedo il gesto sforzato e tremulo con cui Cecilia li spinge verso l'amica, la pelle lucida della sua manina, e vedo anche il moto di stanchezza segreta, quasi austera, che abbassa sulle pupille celesti le palpebre violette, le ciglia sonrade e il riaffondare delle piccole spalle nel cuscino, mentre la bocca forma un broncio infantile e poi si inarca in una smorfia adulta di spregio, linguaggio innocente di una sofferenza troppo dura. Forse per quella smorfia, resa più delicata e altera dal soffio dell'adolescenza, Artemisia disse segretamente addio a Cecilia un anno dopo, che in primavera s'era fatta donna e si cingeva stretta sotto il piccolo seno come le ragazze casigliane. Era diverso il giro che Artemisia doveva fare per raggiungere l'alta finestra di Cecilia. Un'altra volta Orazio Gentileschi aveva mutato casa, uomo inquieto da che era rimasto con tutti quei ragazzi senza donna. 3 ne aveva avute in 10 anni, l'ultima una rossa, scappata col cuoco di Monsignore. Stava ora a Via della Croce e viveva ombrosissimo per quella figliuola che cresceva, voleva far la monaca e guai se la trovava a zonzo, come quando era piccina. Non teneva più garzoni, da 6 mesi aveva dato licenza all'ultimo, il britanno con gli occhi bianchi e i capelli di stoppa, che sulla porta della casipola la sera urlava «Miscia, dannata, vieni a mangiare!» Quando Orazio non era in casa, si raccomandava, ma dispettoso, alle comari del vicinato che tenessero d'occhio la sua porta perché la ragazza non uscisse. Poi tornava di notte, a 5, a 6 ore, e Artemisia e Francesco s'erano addormentati sulla tavola, accanto al piatto della minestra fredda. Ora Artemisia aveva imparato ad accompagnarsi con donne e ragazze grandi, sempre in faccende fra chiese, monasteri e cucine di signori. Già chiacchieravano, perché ogni tanto si staccava da loro e per un'oretta non ricompariva. La vedevano prendere la via degli orti e strizzavano l'occhio. Non sapevano che Artemisia andava da Cecilia. Ma ci andava di rado. E l'ultima volta fu con un sole di ottobre, fermo nel cielo, come una medaglia d'oro, e l'aria fina. L'odor d'olio muschiato che Artemisia metteva di nascosto fra i capelli arrivò sino a Cecilia. Qualcosa poteva essere successo nell'estate alle due fanciulle, senza che se lo fossero detto, tanto poco si erano vedute. E Artemisia raccontò che sapeva dipingere anche lei adesso. Il babbo, che frequenta i primi soggetti, le insegna. E persino Agostino Tasso, cavaliere e gran pittore, le spiega la prospettiva. Anche Cosimo Foriero, che si è fatto ricco ricco. Fu a questo punto che la bocca di Cecilia, torcendosi per quel riflesso doloroso che le era solito, parve all'amica la bocca graziosa di una dama annoiata. Erano spuntati a Cecilia 2 ricciolini leggeri dietro le orecchie, Al collo portava uno scapolare azzurro e un cerchietto d'oro all'anulare destro. La mano, abbandonata in grembo, aveva una leggerezza preziosa, distante, e per la prima volta Artemisia avvertì l'esistenza del dirupo che da quella mano la divideva inesorabilmente. Stizza, rimpianto, un'amarezza gelosa, e sotto come il gemito di un'indegnità oscura, incurabile. «S'è fatto ricco ricco, Cosimo», seguitò, accecata da un'acida ira toscana, «e mi manda guantiere di cose dolci, e sorbetti, e vin di Spagna, e catene d'oro». La foga dell'inventare aprì un perfido spiraglio da cui entrava materialmente in scena il vero Cosimo, grasso e pallido furiere papale, sempre con le mani alla cinta dei calzoni, questo vago compare di Orazio, vago protettore di artisti in bisogno, con spuria figliolanza, argenterie sporche, velluti di seconda mano, lavanteria e mi farà la dote, pescata nel ricordo di un bisbiglio greve dell'uomo al suo orecchio sventato, si incontrò con la folgorante rivelazione di un disagio che ora le lambiva i piedi come un sudicio cane e non poté uscirle di bocca. «Funghi freschi piccolini», cantò dall'angolo di via Ferratina la voce stanca e dolce del solito villano. Cecilia, senza parlare, inarca con un sospiro le reni e la nutrice accorre tutta premurosa, ossequiosa, da servente di dama. «Addio, addio!» grida Artemisia voltando le spalle e ritrovando la pazza agilità della prima infanzia per saltare di sasso in sasso e scomparire, e pianse per la via degli orti mentre rotolava a basso e i vigneroli la guardavano ebeti. Si sbregò la veste rinnovata per Cecilia e non volle più metterla. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.